giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno e buona domenica dall'attestata giornalistica regionale. Ai microfoni Lorenzo Gerlinzoni e Antonio Cagliazza. In apertura all'omicidio avvenuto nella tarda serata di ieri a Bicinicco, a una trentina di chilometri a sud di Udine, un uomo di 43 anni, Stefano Jurig, è stato ucciso dai fendenti di un'arma da taglio e da acido nella sua abitazione in via Roma. A commettere il delitto sarebbe stata un'amica che si trovava nell'appartamento in quel momento, Silvia Comelli, di 42 anni, che ha lei stesso chiamato i soccorsi. La donna al momento è in stato di fermo e avrebbe confessato. Fra i due sarebbe scoppiato un violento litigio, al termine del quale la donna avrebbe inferto ferite con la forbice al volto e al collo di Jurig, un dipendente di Fincantieri, lanciandogli anche dell'acido muriatico. Sul posto nella notte sono arrivati i carabinieri di Udine e di Palmanova, che hanno condotto le indagini anche con l'ausilio del reparto per le investigazioni scientifiche. Una violenta lite dopo le 21 di ieri sera è sfociata in una tragedia a Bicinicco, piccolo comune friulano in provincia di Udine. Ad uccidere Stefano Jurig, 43 anni, dipendente Fincantieri, sarebbe stata un'amica, la 42enne Silvia Comelli, che era nell'abitazione. La donna avrebbe colpito l'uomo con diverse coltellate alla testa e al volto. Addirittura gli sarebbe stato versato dell'acido muriatico in faccia. Dopo l'omicidio avrebbe chiamato i soccorsi e si sarebbe chiusa nel silenzio davanti agli inquirenti, che l'hanno interrogata per tutta la notte. Alla fine la donna è stata arrestata. Tra i due ci sarebbe stata solo un'amicizia, niente di più. Questo quanto trapela dalle indagini affidate ai carabinieri di Udine, che mantengono il massimo riserbo. In paese la coppia era pressoché sconosciuta. Qualcuno ci ha detto che lui saltuariamente tornava nella propria abitazione, visto che spesso era assente per viaggi di lavoro. Lo vedevo andare a buttare l'immondizia, era uno che salutava e basta. Era spesso a casa qui? No, non era un abitante fisso del comune. Bicinicco, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. A causa di uno sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato proclamato da una sigla autonoma, cominciato alle 21 di ieri sera e che si conclude alle 21 di stasera, diversi treni, soprattutto regionali, stanno subendo cancellazioni anche sulle tratte che toccano il Friuli Venezia Giulia. Fra i treni essenziali di cui è prevista la regolare circolazione riguardanti tratte della nostra regione, l'Intercity in partenza da Trieste alle 13.27 diretto a Roma, l'Intercity da Roma delle 15.30 diretto a Trieste, il Frecciarossa in partenza da Trieste alle 17.05 diretto a Milano, la Freccia che parte da Milano alle 18.45 che è diretta a Udine. Udine da oggi ha ufficialmente un nuovo arcivescovo e Monsignor Riccardo Lamba, arrivato dalla diocesi di Roma dove era ausiliario. Questo pomeriggio entra ufficialmente nelle sue funzioni pastorali con una cerimonia solenne in cattedrale alle 16.15 alla presenza di altri 15 presuli, fra cui il patriarca di Venezia e i vescovi di Lubiana e Capodistria. Monsignor Lamba, 67 anni, è nato a Caracas in Venezuela da una famiglia di emigrati italiani. A Don Riccardo, come dice di volersi far chiamare, abbiamo chiesto che cosa si aspetti da questa esperienza alla guida spirituale del Friuli. Essendo una realtà che non conosco, è una realtà da cui avrò molto da imparare. Oltretutto, in queste settimane ho cercato di curiosare qualcosa. Vedo che è una terra di grande cultura, di grande tradizione, quindi sono proprio curioso di imparare tanto e di apprendere tanto da questa tradizione. E poi l'aspettativa mia è anche di poter collaborare insieme con le persone che da anni qui lavorano e collaborano, fare insieme un lavoro pastorale che possa portare avanti ciò che è già stato iniziato in passato. Per Trieste è la domenica della Spring Run, la coloratissima festa che coinvolge atleti veri e famiglie. In 10.000 oggi hanno vestito la maglietta con i colori della manifestazione podistica, diverse le categorie di quella che una volta si chiamava Bavisela. La Trieste 21K, la mezza maratona da Duino a Piazza Unità d'Italia con 2.500 iscritti, la Spring Roller Marathon, una mezza maratona coi pattini a rotelle, anche questa da Duino, e la Bavisela Family Run per da Miramare con oltre 5.000 partecipanti. Piazza Unità in festa per accogliere i vincitori della Trieste Spring Run 2024, una delle manifestazioni più seguite dalla città e soprattutto più partecipate, organizzata dalla PD Miramare con la collaborazione della SD Trieste Atletica. I primi ad arrivare i roller erano in 250 partiti da Duino, un percorso di 21 chilometri, lo stesso dei big runner che quest'anno sono 2500. Il primo ad arrivare dopo un'ora, 6 minuti e 40 secondi Abdullah Bamussa della GP Livenza Sacile, secondo il keniota Timothy Kimutai Kirui dopo un'ora 9 minuti e 7 secondi e terzo l'italiano Alessio Miliani dell'Atletica Monfalcone con il tempo di un'ora 9 minuti e 48 secondi. Per la gara femminile la prima a raggiungere il traguardo l'etiope Asmera Work Bekele Volkeba con un'ora 17 minuti e 44 secondi, la seconda Erika Michielan della Venice Marathon con un'ora 25 minuti e 58 secondi e la terza la triestina del CUS Gaia Tomassini con 1:26 e 12. Grande entusiasmo anche all'arrivo dei tantissimi partecipanti della Bavisela Family Run, 6.000 sulla linea di partenza a Miramare alle 10 e dallo stesso punto poco prima sono partiti anche i runner della staffetta solidale targata Dinamo Cup. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Situazione meteorologica: cielo da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, nuvoloso in montagna. Ecco le temperature alle 11. A Trieste 17,5 gradi, a Gorizia 20, Pordenone 19,5, Udine 18,5, Tolmezzo e Tarvisio 17,5, Forni di Sopra 16, Sappada 13, Piancavallo 10,5, Zoncolan e Lussari 7,5, a Lignano 21,5, a Grado 17,5. Le previsioni per le prossime ore: in montagna nuvoloso con possibili rovesci sparsi, su pianura e costa cielo poco nuvoloso con possibilità di qualche locale rovescio anche temporalesco, soffierà vento da sud moderato sulla costa e sul settore più occidentale. Eccoci alla pagina sportiva per la Serie A, i tifosi dell'Udinese e la stessa squadra hanno gli occhi puntati sulle partite in programma oggi, i match che coinvolgono le altre squadre impegnate nel tener lontana la Serie B. Tra poco alle 12:30 il Cagliari ospita in casa il Lecce, alle 15 lo scontro diretto fra Empoli e Frosinone e poi la partita Verona-Fiorentina. Alle 17 quindi la situazione in classifica sarà più chiara. Udinese in campo domani al Friuli contro il Napoli alle 20:45. Per il basket tutte sul parquet le tre regionali Apu, Trieste e Cividale. Il gol di Lorientè all'Inter, già campione d'Italia, rischia di complicare ulteriormente la corsa salvezza dell'Udinese. Il Sassuolo raggiunge i friulani al terz'ultimo posto, rimanendo così in lizza per la permanenza in Serie A. Le pance piene degli avversari o le teste concentrate su altro a questo punto della stagione fanno tutta la differenza del mondo. Oggi Verona-Fiorentina potrebbe testimoniarlo, ma gli occhi della squadra di Cannavaro saranno tutti sullo scontro diretto Empoli-Frosinone, entrambe a più due sulle zebrette. Difficile capire cosa sia meglio per l'Udinese, forse un pari, con la possibilità, battendo il Napoli, a proposito di pance vuote e teste in vacanza, di agganciare entrambe già domani sera. Dopo mesi di attesa, iniziano finalmente stasera i play-off del basket di A2, regionali tutte dalla parte oro del tabellone che assegna una promozione APU unica con il fattore campo a favore. Inizia la serie contro la giovane Juvi Cremona stasera alle 18 al Carnera da favorita, nonostante l'assenza per tutti i quarti di finale dell'americano Clark, recuperato invece Caroti. Ad Esio alla stessa ora la Cividale delle 10 vittorie consecutive testa la resistenza di Cantù, una delle favorite alla promozione. Nell'unico scontro diretto in campionato tra le due i ducali hanno dominato, ma non fa testo perché da oggi il margine di errore è minimo. La banda di Pillastrini con entusiasmo alle stelle cercherà subito lo sgambetto. Fuori casa anche Trieste sul campo della incerottata Torino di Francociani per gara 1. L'obiettivo è quello di vincere una delle due gare in trasferta per avere l'eventuale match point in casa. La squadra di Christian, pur molto discontinua finora, ha tutto per riuscirci, a partire dalla condizione fisica. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Domani i giornalisti della RAI saranno in sciopero per 24 ore. Le motivazioni in questo comunicato sindacale dell'Usi Grai. Gentili ascoltatori ed ascoltatrici, domani i giornalisti e le giornaliste della RAI per la prima volta dopo molti anni si asterranno totalmente dal lavoro per protestare contro le scelte del vertice aziendale che accorpa testate senza discuterne col sindacato, non sostituisce coloro che vanno in pensione e in maternità, facendo ricadere i carichi di lavoro su chi resta, senza una selezione pubblica e senza stabilizzare i precari, taglia la retribuzione, cancellando unilateralmente il premio di risultato. Ma non solo. In questi giorni è diventato di dominio pubblico il tentativo della RAI di censurare un monologo sulla 25 aprile, salvo poi, in evidente difficoltà, cercare di trasformarla in una questione economica. Preferiamo perdere uno o più giorni di paga che perdere la nostra libertà, convinti che la libertà e l'autonomia del servizio pubblico siano un valore di tutti. E la RAI è di tutti. E ora sentiamo la replica dell'azienda. La decisione del sindacato Usigrai di scioperare su motivazioni che nulla hanno a che vedere con i diritti dei lavoratori si inquadra in motivazioni ideologiche e politiche. L'attuale governance della RAI sta lavorando per trasformare il servizio pubblico in una moderna digital media company. Un lavoro complesso che ha trovato attuazione in un coraggioso piano industriale votato dal Consiglio d'amministrazione della RAI e oggi in via di realizzazione dall'intera azienda. I giornalisti che lavorano nelle testate della RAI rappresentano una risorsa fondamentale nell'espletamento del lavoro di informazione e approfondimento che è alla base dell'esistenza del servizio pubblico. Per questo si sta lavorando ad un nuovo modello in linea con le nuove sfide del giornalismo e che non mette in discussione diritti acquisiti né posti di lavoro. Nel merito delle contestazioni Usigrai, alcuna censura o bavaglio è stato messo sull'informazione ed invita l'Usigrai a cessare di promuovere fake news che generano danno d'immagine all'azienda. L'azienda ha proceduto all'adeguamento del sistema premiante dei giornalisti a quello di tutti gli altri dipendenti. L'impossibilità nell'attuale quadro economico di aprire nuovi concorsi pubblici per nuove assunzioni giornalistiche a fronte di un organico di oltre 2.000 unità, mentre si rendono invece necessari processi di ottimizzazione che consentano di valorizzare l'organico esistente. In questa direzione vanno le razionalizzazioni approvate dal CDA RAI. Lo sciopero del sindacato Usigrai a un mese dalle elezioni europee, oltre a impoverire l'offerta informativa, espone il servizio pubblico a strumentalizzazioni politiche, privando i cittadini del fondamentale diritto all'informazione, caposaldo della democrazia. Sono le 12:27 minuti 40 secondi, il GR termina qui, l'assistenza tecnica è stata curata da Carlo Morello e da Federico Comar, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio oggi col GR delle 18:30 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione da Lorenzo Gerlinzoni e da Antonio Cagliazza, buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.